Economia in pagina. Buongiorno, bentornati alla nostra puntata di Libri di Economia. Oggi parliamo proprio di gnomi, di banchieri, di bancari. Ne parliamo con Giancarlo Galli. Buongiorno Giancarlo Galli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Giancarlo Galli è autore del libro appunto Nella giungla degli gnomi, politica, economia e finanza dall'era Fazio al grande crack. Giancarlo Galli è un giornalista, ha scritto molti libri dedicati soprattutto ai temi economici, tra cui le biografie degli Agnelli, di Cuccia, ha scritto la mappa del capitalismo italiano nel Italia in declino e così via. Questo libro, un libro impegnativo, sono oltre 300 pagine, racconta la storia economica d'Italia sotto il profilo delle banche. Le banche, dalla Banca Centrale, dalla Banca d'Italia, infatti il richiamo all'era Fazio è proprio in copertina, al crack attuale che ha coinvolto probabilmente per fortuna senza grandi traumi, ma con grossi scossoni anche il sistema bancario italiano. Allora, Giancarlo Galli, le banche italiane, si è detto, sono più solide delle altre. In questo tuo viaggio cosa hai scoperto? Beh, sarei molto prudente in questa affermazione. Io ho notato che le banche italiane, della cui solidità non ho elementi per dubitare, però si sono comportate in un modo quantomeno bizzarro, nel senso che hanno confessato poco alla volta i loro errori. Da prima erano totalmente immuni, erano totalmente al di fuori, non erano coinvolte nei subprime, eccetera, eccetera. Poco alla volta si è visto che le loro partecipazioni estere non erano poi quelle che si dicevano, che anche loro avevano molti scheletri nell'armadio, e alla fine abbiamo visto che il crack borsistico del nostro sistema bancario è stato esattamente uguale a quello delle banche degli altri paesi, in alcuni casi addirittura peggiore, con però una caratteristica di essere arrivato gradualmente e non di colpo, ecco. E con un altro particolare: mentre altrove si sono cercate strade di uscita, che ancora però non si vede se siano state trovate, cambiando radicalmente la classe dirigente, da noi viceversa il sistema rimane immutabile, cioè i nostri gnomi non hanno grande voglia di abbandonare le loro poltrone che hanno occupato senza molta gloria. Ecco, gnomi è un appellativo che si riferisce ai banchieri svizzeri, sì, la patria, esatto, delle banche. Gnomi di Zurigo, perché nella leggenda un carissimo amico zurighese diceva: qui i banchieri sono come gli gnomi, cioè esseri invisibili che stanno nelle visce della terra, che sono buoni, che lavorano tanto, eccetera, eccetera, eccetera. Noi oggi viceversa abbiamo dei banchieri che fanno di tutto per apparire in televisione, per esibirsi, fanno grande notorietà, e questo probabilmente incide anche sul loro lavoro. Non solo, ma gli gnomi sono frugali, non dico poveri, ma frugali, e così lo erano anche i nostri banchieri che io ho amato e del quale ho raccontato le storie, da Mattioli a Cuccia. Se pensiamo che un Mattioli viveva in affitto, che Cuccia pure, che sono morti quasi poveri, Cuccia con una villetta sul Lago Maggiore a Meina, che forse non piacerebbe nemmeno a un impiegato, e guardiamo viceversa i compensi attuali di cui si autogratificano i banchieri, si rimane allibiti. Ecco, mi sembra che hai un po' una nostalgia dell'era Cuccia, ma è un'era anche quella in cui c'era molta economia di relazione, in cui c'erano molte un'economia nascosta, molti rapporti tra banchieri e imprenditori che venivano tessuti nelle anticamere, se non negli studi dei banchieri, e cui forse si sapeva poco, se non come qualche giornalista che riusciva a raccontarlo. Forse l'era attuale è un'era un po' più trasparente, un'era un po' più di competizione. Me lo sarei augurato, lo speravo anch'io, ma viceversa ci sono uno dei più recenti episodi, le difficoltà in cui si trova Romain Zaleski, questo grande avventuroso affarista transalpino che non possiamo neanche chiamare banchiere ma finanziere. Abbiamo visto che sembrava che Zaleski, franco-polacco, molto legato al nostro mondo finanziario bresciano, stesse da una certa parte, e invece si è visto che sotto sotto era finanziato da tutti. Quindi in realtà il nostro sistema non è mai stato competitivo. I nostri banchieri fanno finta di litigare in superficie e poi in realtà si sono dimostrati essere una grande confraternita, in parte laica, in parte cattolica, però insomma confraternita restava. E ha fatto anche molto specie l'appello recente del ministro Tremonti a dire ritorniamo all'etica, riscopriamo l'etica, eccetera eccetera. E di etica si era parlato moltissimo in questi anni, e a un certo punto si è visto che viceversa c'erano molte ambizioni, c'era molto arrivismo, c'erano progetti faraonici, ma di etica assai poca, tant'è che quando vediamo, scorriamo il listino di borsa, non è la preoccupazione per il listino che cade, la borsa è sempre stata ciclica, eccetera, ma per il fatto che oggi attraverso i fondi di investimento, e tu lo sai meglio di me, ci sono 5 o 6 milioni di famiglie italiane coinvolte coi ribassi di borsa, e abbiamo persino i nostri fondi liquidazione, no? Il trattamento di fine rapporto impiegato in fondi che hanno delle quote in borsa e che purtroppo stanno dando prestazioni assolutamente negative. Quindi secondo me questi banchieri hanno commesso degli errori di non poco conto. Beh, è una crisi però che ha colpito innanzitutto gli Stati Uniti e poi si è propagata, proprio perché la finanza è globale, al resto del mondo e non poteva non risentirne un paese aperto e in fondo moderno come l'Italia. Io vorrei anche spezzare una lancia e rassicurare: certamente ci sono state delle perdite in borsa che hanno colpito i fondi di investimento, i fondi pensione, ma sono strumenti che vanno visti nel lungo termine. Crolli in borsa ce ne sono stati anche nel passato, e la storia ha insegnato che anche il crollo del 29 è durato un po' più a lungo degli altri, però è stato poi superato e la borsa valori ha sempre mantenuto una crescita in linea con quella dell'economia. Adesso certamente problemi ce ne sono, però la struttura, se riusciamo a farla resistere tutti insieme, abbiamo tutto l'interesse a farla resistere e a riprendere una strada in cui l'economia reale riprenda un po' il suo sposto rispetto all'economia finanziaria. Forse i banchieri hanno avuto troppo spazio e troppo potere. Beh, io sposo pienamente il tuo ottimismo, perché se non si ha ottimismo non si finisce da nessuna parte. E d'altra parte, come giustamente sottolinei, la storia dell'umanità è fatta di cicli economici che una volta erano di tipo agricolo, poi sono diventati di tipo industriale. Quindi non ci si dovrebbe spaventare oltre misura. D'altra parte, stavo proprio in questi giorni studiando la crisi del 29, perché noi siamo un po' come gli Stati Maggiori, no? Che continuiamo a rivedere i modelli del passato. Beh, ho visto che anche nel 29, nonostante tutto, in Italia, parliamo dell'Italia, nessun risparmiatore, questo dovrebbe confortare, perse una lira. Cioè le banche onorarono tutte. Perché? Perché intervenne lo Stato. Certo, ci fu la grande pubblicizzazione delle banche di interesse, esatto, nazionale, cosa che sta facendo lo, esatto, Stato, pur in forme diverse anche adesso. Molti adesso, no? sia pure in maniera surrettizia. No, quindi da questa crisi indubbiamente usciremo, bisogna guardare in avanti. Certo, non è ancora chiaro quanto sarà lunga e quanto sarà dolorosa, però diciamo che abbiamo commesso molti peccati, quindi un po' di penitenza in termini di minor consumo, in termini di maggiore oculatezza e soprattutto di maggiore impegno, di voglia di lavorare anche, perché dobbiamo ritrovare una solidarietà nel lavorare, nel produrre. Purtroppo il clima politico mi sembra, a differenza di quello che c'è in altri paesi, per quel poco che ho visto in queste settimane, in Francia, in Gran Bretagna, in Spagna, è molto lacerato, no? Ci sono delle tensioni che che fanno temere anche una situazione sociale, non dico bollente, ma comunque molto, molto tesa. Sì, indubbiamente, la situazione tesa, forse di fronte a crisi di questo tipo così vaste, una maggiore solidarietà nazionale, anche se il termine è stato usato in altre stagioni, potrebbe essere utile per affrontare appunto avvenimenti come questi, che richiederebbero una visione unitaria e anche la capacità di ridare fiducia complessivamente ai cittadini. Grazie mille a Giancarlo Galli, abbiamo parlato con lui del libro Nella giungla degli gnomi, edito da Garzanti, Politica, Economia e Finanza dall'era Fazio al grande crack. È un libro che costa 18,60 euro, ha quasi 400 pagine, racconta la storia della finanza italiana di questi ultimi anni. Grazie a quanti ci hanno seguito, l'appuntamento è la prossima settimana.